programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso, ben ritrovati all'ascolto CRM per Radio, la radio che si sente e si vede, 101.4 la frequenza, per chi ancora non la conoscesse, mi sembra che siano molto pochi, il telefono 0900 21 42 345 e 6 per le vostre richieste discografiche. Ho una puntata un po', non dico sottotono, ma una puntata che riguarda alcune patologie, parleremo di allergie nel periodo invernale ma anche in quelle estive con il dottor Zambito, che è un allergologo dell'ASL di Termini Imerese, e poi dovremmo trattare la epatite C per capire meglio questa patologia. Abbiamo pensato di sentire il responsabile che si occupa di questa patologia a Palermo, che è il dottor Madonia, e quindi cercheremo di capire come si può evitare di entrare in contatto con con questa malformazione, con questa malattia. Intanto stavo dando un'occhiata al giornale, alle notizie che mi arrivano online. Si parla del funerale di quelle quattro stupende persone che hanno perso la vita domenica alle 19:10, un orario fatidico. Io ne parlo così in maniera contrisa, non per, oltre per la partecipazione al dolore insieme a tutta quanta la nostra redazione, ci associamo alle condoglianze Dario Cianciolo, questo poliziotto che, in men che non si dica, ha perso due stupende figlie, la moglie e insieme a una zia che viaggiava a bordo di questa Renault Scenic, e si è schiantata contro il guardrail in prossimità dello svincolo autostradale da Messina verso Palermo su Castelbuono. No, dicevo, ne parlo in maniera veramente triste, non soltanto per la gravissima perdita di queste persone stupende, per chi li conosceva, insomma anche gli articoli ne parlano in maniera entusiastica, ma perché per pochi minuti non ho assistito in diretta a questo epilogo tragico, a questo incidente veramente grave. Non ci sono parole, non si trovano testi, non ci sono voglio dire esternazioni che possono coprire e lenire il dolore di quest'uomo, che naturalmente è uscito quasi illeso, con poche scoriazioni al volto e al collo, ma comunque si è salvato. Ci si può immaginare in quanta disperazione e quanta solitudine si trova attorno, nonostante i colleghi, lui prestava servizio alla questura di Palermo, quanti colleghi tutti insieme al questore si sono stretti intorno a lui per non fargli mancare quel calore umano, quell'affetto che purtroppo gli mancheranno per moltissimi, moltissimi, moltissimi anni. C'è un dato di fatto però, e mi farebbe piacere avere dietro questi microfoni uno dei responsabili dell'autostrada Messina-Palermo. Su Brolo, in provincia di Messina, spesso sono successi gravissimi incidenti mortali in prossimità della galleria che poi sfocia sullo svincolo di Brolo. Da quest'altro versante, tra Cefalù e Castelbuono, insomma, hanno perso la vita ragazzi di Finale di Polnia, addirittura tre, e un commesso viaggiatore di Sant'Agata di Militello, sempre sullo stesso svincolo, pochi chilometri prima di arrivare a Cefalù. Quindi è un'autostrada che lascia dei grossi punti interrogativi, soprattutto sul manto, anche se reso viscido dalla pioggia, però se il manto stradale è fatto con i dovuti criteri, anche perché è un'autostrada a pagamento, quindi dovrebbe essere, come dire, più all'avanguardia rispetto alle strade provinciali e statali che insomma hanno problemi seri, perché lo Stato a volte dimentica, a volte non ha i fondi, la provincia, la regione, per intervenire, mentre l'autostrada a pagamento noi si paga il pedaggio per avere di contro le gallerie illuminate, cose che non sono, e soprattutto un manto stradale drenante, quindi un manto stradale che va tenuto sempre in costante monitoraggio per evitare sicuramente l'alta velocità. È colpa di noi automobilisti, quello va un attimo ridimensionato, bene fa quindi la polizia stradale con tutti i mezzi coercitivi per costringerci a camminare e a guidare in modo corretto e non in modo sproporzionato, ma anche le responsabilità in oggetto da parte dell'ente autostradale preposto al controllo di questa bretella autostradale lascia molto a desiderare, a cominciare appunto dalle illuminazioni che riguardano le gallerie a finire al manto stradale. È un'autostrada insanguinatissima. Io farò di tutto per avere dietro questi microfoni i responsabili dell'autostrada, e quindi l'amministratore e il direttore generale, vediamo chi sarà disponibile, se avranno il coraggio di venire dietro questi microfoni a chiarire come mai proprio in questi punti cardini sono successi più di un incidente grave mortale. Fatto sta che comunque qualsiasi intervento si farà o si ponga in essere, nessuno può restituire queste due stupendi angeli, così li scrivono i colleghi della stampa, queste ragazze. Io vedo le foto qui nei nostri monitor, sono veramente belle, ma molto belle, come bella internamente ed esternamente era la signora Volo, la zia. Ci sono tantissimi ricordi che affollano la mente di Dario Cianciolo, il papà di queste ragazzine che sono purtroppo decedute. Poi tocco il cuore quello che dice la sorella maggiore, che era a casa perché febbricitante, per fortuna si è salvata, ma è ben poca consolazione quando ci si gira per casa e non c'è più il sorriso di altre due sorelle, soprattutto l'abbraccio della mamma. È una perdita grandissima, e ci auguriamo che l'ente autostradale prenda provvedimenti, che la regione, se è il caso, se ha delle responsabilità, prenda visione e comunque ci si muova, perché queste cose non accadono più. So che è retorica, però io questo posso fare, questo posso denunciare tramite questi microfoni. Mi auguro, ripeto, che chi ha le responsabilità paghi a caro prezzo, perché tanto è costato a molte famiglie aver pagato un pedaggio, non soltanto in termini economici, ma hanno pagato pedaggi pesantissimi in termini di sangue. Scusate un po' il tono, ma non ci si può non arrabbiare di fronte a questi fatti. Non si parla qui di errore umano, come è successo in Germania nel disastro ferroviario. L'errore umano ci può anche stare, ma non tutti, penso che di quelli che ci hanno rimesso la vita, viaggiavano a 200 km orari. Sicuramente la signora, che si presume dai primi accertamenti si trovava alla guida della macchina, presumo non corresse a più di 110-120, che poi e l'andatura normale in un'autostrada è consentito anche dalla legge. Sicuramente il manto stradale reso viscido dalla pioggia o con qualche pozzanghera o una deformazione del manto stesso non ha consentito l'aderenza perfetta al terreno da parte dei pneumatici della macchina del signor Cianciolo, e questa quindi è decollata andando a sbattere violentemente contro due guardrail. Quindi pensate, si è distrutta letteralmente una Scenic, non è una macchinetta da quattro soldi, è una macchina robusta, una macchina di grossa cilindrata. Per cui nulla, non aggiungo altro, lascio il silenzio più totale, ma naturalmente da parte mia personale, di tutto l'entourage di CRM Piredio, siamo vicinissimi alla famiglia Cianciolo e siamo molto molto toccati da quello che è successo a questa famiglia, ma non soltanto a questa, tantissime altre che hanno pagato, dicevo e ripeto, il pedaggio, non soltanto in termini economici ma soprattutto in termini di sangue. E quindi è duopo adesso che qualcuno si muova, che qualcosa si faccia, perché sennò quanti altri pedaggi ancora ci saranno da pagare, questo non si sa. Speriamo più, mai più. Dunque, io direi di dare la linea un attimo alla regia per... No, tocca a me, sì, hai ragione, quindi non do la linea alla regia, ma parlo io degli sponsor che ci consentono di parlare dietro questi microfoni, di fare questa trasmissione che vi ricordo si chiama Carta e Penne, che va rigorosamente in diretta ogni giovedì da mezzogiorno alle 13:10 circa, secondo il palinsesto, e poi in differita domenica dalle 11:30 in poi ci potete riascoltare. Intanto potete seguirci anche in diretta su www.facebook.com/crmepiradio oppure diretta@crmepiradio.it. I telefoni ve li ho dati prima, quindi potete seguirci anche sul vostro computer di casa o portatile. Dico bene, mi rivolgo al mio fonico, number one, fa il segnale dietro il vetro, lui è sempre silente. Adesso lo faccio intervenire, perché io amo sempre che i tecnici sono sempre dietro le quinte, ma senza di loro non sarebbe possibile fare nessun programma. Quindi ringrazio Dario, dico giusto? No, Simone. Ah, Simone. Ogni stavo età in silenzio per questo, aspettavo che sbagliassi il nome. Allora, condividi quello che abbiamo detto sugli incidenti su questa benedetta autostrada, Simone? Condivido pienamente, purtroppo sono cose che non dovrebbero mai e poi mai succedere. Ovviamente chi ha delle responsabilità deve anche pagarle. Simone, grazie per la parte tecnica e l'assistenza che ci dai, perché se no senza di te il programma non si potrebbe fare. Io non sono tecnicamente preparato, tu lo sai, no? Ho bisogno di qualcuno che interagisca con me. Allora, grazie ancora, poi più tardi ti farò reinserire un'altra volta, quando vuoi dire qualcosa basta che pigi il bottone, sai come fare, stoppi me e vai tu. Allora, dicevo, gli sponsor senza i quali non sarebbe possibile realizzare, almeno nei mass media privati, alcun programma. Bene, noi riusciamo a farlo grazie ai Vecchi Sapori. Lo trovate, cosa è, un ristorante, una pizzeria, lo trovate su Pedreria Sottana, Bivio Madonnuzza, sono i sapori appunto vecchi di un tempo. Trovate le zuppe di fagiola che sono buonissime, il macco, insomma tutte quelle cose che un tempo i nostri genitori o i nostri nonni ci facevano trovare a casa, lo trovate a Vecchi Sapori. E non vi dico altro, andateci a nome di Filippo Glorioso, fermatevi lì a Bivio Madonnuzza, è anche carino, potete, c'è una bellissima pasticceria lì accanto, quindi tra un dolcino e l'altro, in attesa che il pranzo sia pronto, poi andate a Vecchi Sapori e lì potete veramente deliziare il vostro palato. Vi ricordo Bivio Madonnuzza. Poi abbiamo Rinascimento a Castelbuono, scusate, di cosa vi sto parlando? L'arredo culla intanto è importante, l'arredo bagno anche con firme prestigiosissime come la per i vostri, per la biancheria attinente alla camera da letto, la Caleffi, che è una firma, è una tradizione, ma bisogna andare a visitare questo negozio che è a due passi da Piazza Margherita a Castelbuono. In questo momento ci sono sconti del 20, del 30, quindi Rinascimento a Castelbuono. Una cosa importante per chi ama il ricamo a mano, questa è un'azienda che a livello artigianale appunto continua a portare avanti le tradizioni di un tempo appunto sul ricamo a mano. Detto questo, io mi fermo un attimo per una brevissima pausa musicale, dopodiché rientreremo, mi auguro, chiedo conferma alla regia, con il dottor Zambito dell'ASL di Termini Imerese, con il quale tratteremo appunto il tema del le allergie. Linea alla regia. Cosa rimane poi dei giorni miei? Solo l'ipocrisia, che in verità direi rimani tu dentro ancora, tu indelebile. Ed è così che dirai che cosa vuoi che sia l'amore, se mi lasci sempre sola ed io ti vuoi. C'è stato un tempo in cui credevo che rinunciare a noi fosse semplice, invece no, è solo qui, te lo dirò, se vieni a prendermi. Ed è Brano molto bello, vi ricordo che siete sempre sintonizzati sui 101.4 CRMP Radio, in studio Filippo Glorioso, Simone alla parte tecnica, l'avete anche sentito parlare perché i phone ci parlano, mica stanno zitti, non sono sordomuti, non sono gente che si mette lì soltanto con i capelli dritti in testa perché sono degli scienziati, a mettere mani in tutti quei fili non è molto facile. Allora, intanto dicevo, riprendiamo in diretta carta e penna e abbiamo in diretta radiofonica il dottor Marcello Zambito, che ringrazio per aver accettato l'invito. Dottor Zambito, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, io ho avuto il piacere di sperimentare la sua bravura in quanto allergologo, dico bene? Grazie, sì, sono specialista in allergologia dal 1987, mi sono specializzato a Bari, presso l'Università di Bari. Lei è siciliano però? Sì, sì, sono nato a Palermo e mi occupo di allergologia dall'83. Sono stato 22 anni al Policlinico, al servizio di allergologia, adesso sono specialista ambulatoriale presso l'ASP 6 Palermo. Benissimo, ci ha fatto tutta quanta il suo excursus, il suo curriculum vitae artistico, no? Nel senso lavorativo, non artistico, perché è un artista, sì, si può essere anche un artista anche in questo. Allora, entriamo subito nel merito della sua specializzazione, dottor Zambito. Esistono diversi tipi di allergie, no? Io le faccio un esempio: quando c'è umidità nell'aria, starnutisco in continuazione. Cosa succede? Allora, noi abbiamo le allergie respiratorie, che sono quelle più conosciute. Noi per allergie respiratorie intendiamo la congiuntivite, la rinite, sì, la tosse e l'asma di natura allergica. Cosa succede? Succede che noi, insomma, nell'atmosfera abbiamo delle sostanze che possono essere pollini, muffe, epiteli di animali o acari della polvere di casa. Questi in genere li troviamo negli appartamenti. E le nostre mucose, insomma, respirano queste sostanze e nel soggetto predisposto, perché ci vuole una predisposizione atopica, quindi allergica, sì, queste sostanze provocano una reazione anomala. Reazione anomala che si può manifestare appunto con congiuntivite, quindi prurito agli occhi arrossati, occhi che lacrimano, oppure disturbi al naso, quindi con molti starnuti, naso che cola tipo acqua, noi diciamo una rinorrea, sì, acquosa, sì, e prurito nasale, e a volte anche ostruzione nasale che è molto fastidiosa. E quando questa allergia scende al petto, noi diciamo, si può avere anche tosse e asma, che è la patologia, insomma, più grave per quanto riguarda le allergie respiratorie. Abbiamo parlato della patologia, parliamo invece della prevenzione, per esempio quando si è in casa con la polvere, ci sono gli acari, ne faceva cenno prima lei, sì, come ci si può difendere, dottor Zambito, da questi attacchi? Sì, allora noi abbiamo, chiaramente noi dobbiamo parlare sempre di evidenze scientifiche. Allora, per quanto riguarda gli acari chiaramente è il periodo più brutto, noi abbiamo una stagionalità per gli acari, quindi anche gli acari non è vero che ci sono sempre, come si suol dire, perché sì, sono degli esseri viventi, e il periodo più brutto è l'autunno, l'inverno e la primavera. Bisogna ricordare che in autunno e in primavera questi acari si riproducono, quindi è la stagione della riproduzione, quindi c'è molta più percentuale di acari nell'ambiente. La prevenzione, chiaramente questi acari prediligono l'umidità, quindi noi diciamo che anticamente le mamme che aprivano le case, che facevano arieggiare la casa, questo è un metodo che noi dovremmo riprendere, perché attualmente noi chiudiamo le case, mettiamo vetricamere, termosifoni, e questo favorisce l'umidità e quindi il ricircolo di acari nell'ambiente. Altri metodi che noi potremmo utilizzare, che noi possiamo utilizzare, è quello di tenere la stanzetta del bambino, del paziente allergico, la più pulita possibile. Quindi noi dobbiamo utilizzare delle federe e dei coprimaterassi e dei copricuscini antiacari specifiche. Questo è l'unico metodo attualmente scientificamente validato. Oh, questo per quanto attiene, io la fermo perché sennò potremmo disquisire fino a domani mattina sugli acari, ci mancherebbe. Fermare, allora, e questa è la prima forma di difesa per, sì, evitare. La prevenzione ambientale è molto importante. È molto importante. Se invece già si ha questa patologia in corso, siccome è fastidiosa per chi svolge determinati lavori, no? Vedi, io che faccio lo speaker radio televisivo, lei che fa il medico, ci si lega al lavoro e si lavora male, si vive, certo, male. Certo, noi ormai, ecco, misuriamo in termini di qualità di vita queste patologie. Esatto, quindi per acquisire un po' più di serenità, ecco, cosa bisogna assumere? Allora, è chiaro che prima bisogna rivolgersi a uno specialista in allergologia per fare le prove allergiche. Le prove allergiche sono delle, insomma, molto semplici, si mettono in genere delle gocce di allergene, degli estratti allergenici sugli avambracci. Sì. Il risultato si vede entro 10 minuti, quindi è un metodo abbastanza semplice e poco costoso. Quindi una volta accertato l'allergia, in questo caso per esempio gli acari, noi abbiamo delle terapie. Le terapie possono essere sintomatiche, quindi con dei farmaci, sì, che in genere sono degli antistaminici o degli spray nasali o degli spray, diciamo, al cortisone locale per quanto riguarda l'asma. E stiamo parlando di allergie, diciamo, mediamente lievi, no? Allergie respiratorie lievi, sì. Sì. Però noi, come allergologia, abbiamo un'arma importante che è il vaccino. Quindi una volta, diciamo, stabilita l'origine allergica della patologia, noi abbiamo la possibilità di andare a curare questa allergia. Perché non dimentichiamo che la rinite, si è visto che la rinite allergica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha etichettato questa rinite allergica come una patologia che può portare all'asma. Quindi noi dobbiamo prevenire questa progressione tra rinite e asma, e questo si può fare soltanto col vaccino. Il vaccino adesso non si fanno più, insomma, le punture come una volta, abbiamo dei vaccini molto semplici da somministrare con delle gocce che si mettono sotto la lingua e si possono fare direttamente a casa. Abbiamo semplificato un sacco di situazioni, insomma, certo. La puntura, la paura della puntura. Certo, perché tra l'altro si doveva andare anche dallo specialista, perché si potevano avere anche delle reazioni, quindi con questo metodo non abbiamo più nulla di tutto questo. Ecco, dottore, a me sorge una domanda che credo sia molto importante. Spesso si arriva al pronto soccorso, dimentica o quasi mai si sa che si può essere allergici non soltanto ai farinacei, quindi si diventa celiaci, no? Sì. Ma si può essere allergici, cosa molto più grave, a determinati farmaci o delle composizioni che fanno parte di un farmaco. Si rischia lo shock anafilattico. Cosa suggerisce lei a noi comuni mortali che siamo tutti i giorni in giro e può succederci di tutto, insomma, di arrivare a un pronto soccorso? Non bisognerebbe avere un qualcosa addosso per dimostrare che si è allergici anche a determinati farmaci per evitare poi, ecco, gli shock anafilattici? Sì, allora è chiaro che fortunatamente non esistono degli allergici senza sintomi, quindi noi non dobbiamo preoccuparci a priori. Quindi chi è allergico alle api, alle vespe, agli alimenti, ai farmaci, deve sempre prima aver avuto delle reazioni, chiaramente sì, non di shock anafilattico, ma delle reazioni che vanno in genere da problematiche cutanee, quindi orticaria, dei ponfi, prurito, asma, dopo aver preso le medicine. Quindi un campanello d'allarme ci deve essere. Questo deve portare poi immediatamente il paziente dall'allergologo. Siamo noi poi a individuare tutta una serie, appunto, di farmaci o dare dei tesserini a questi pazienti da esibire quando loro devono prendere delle medicine. Ho capito. Quindi al primo campanello d'allarme, alla prima reazione, questi pazienti devono presentarsi a noi e noi individueremo già. Cioè non bisogna fare esperimenti, per esempio questo farmaco mi ha dato questo fastidio, ne prendo questo che non mi dà fastidio. No, questo, ripeto, poi il paziente deve arrivare dall'allergologo e saremo noi ad indicare i farmaci alternativi al paziente. E questo è un imperativo categorico. Fatta questa premessa, ci sono, dicevo prima all'inizio della nostra intervista, diversi tipi di allergia. Ce n'è una in particolare che l'altro giorno ho sentito per la prima volta, allergia da contatto. Sì. Spieghiamo questa ai nostri amici radioascoltatori. Parliamo di dermatite da contatto perché è una patologia che colpisce la pelle, e questa patologia in genere si presenta con prurito, arrossamento e anche un eczema, quindi con delle fissurazioni nella pelle, nelle zone dove si può venire a contatto con l'allergene. In questo caso sono sostanze chimiche, quindi parliamo di nichel, che è l'allergia più frequente. Sì. E possiamo parlare anche di patologie professionali, quindi tinture per capelli dei parrucchieri, possiamo avere il potassio bicromato, che è l'allergia dei detersivi, ma possiamo avere anche le patologie dei lavoratori, quindi il cemento. E in questo caso bisogna fare un test che si chiama patch test, dove si vanno a testare queste sostanze, si mettono con dei cerotti, si mettono delle pomate che si applicano con dei cerotti sulle spalle. Si devono tenere 2 giorni, dopo 2 giorni avviene l'eventuale reazione. In questo caso si individua la sostanza a cui il paziente è allergico e bisogna allontanarsi dalle sostanze che eventualmente hanno provocato questa dermatite da contatto. Non scordiamoci che queste dermatite da contatto a volte possono provocare la dermatite anche in tutto il corpo, pur non toccando, diciamo, la sostanza con quella parte del corpo. Quindi è una cosa da attenzionare. Perché okay, anche questo può dare delle... Chiaramente non possono dare shock anafilattici, però possono danno dare molto fastidio. Molto serie. Molto fastidio. Prima di lasciarla al suo lavoro, perché so che lei è impegnatissima ed è molto scrupoloso nel suo lavoro, e questo le fa onore, un'ultima domanda. A me succede spesso di parlare con delle casalinghe, e io, che sono uno che osserva tutto facendo il mestiere che faccio, noto spesso delle grosse screpolature, addirittura delle spaccature negli arti superiori, cioè le mani. Le casalinghe, lei sa che spolverano, lavano i piatti, e c'è contatto con i detersivi. Per ovviare, oltre ai guanti di protezione da indossare, quali unguenti, quali interventi farmacologici, se il caso, si debbono porre in essere per evitare queste forme di dermatite appunto nelle mani? Allora, è chiaro che noi questa patologia va diagnosticata tramite questo patch test di cui parlavamo prima. Sì. Una volta diagnosticato per esempio un'allergia ai detersivi, che poi è il potassio bicromato, che attenzione, il potassio bicromato è una sostanza che si può trovare anche nelle tinture, anche negli indumenti di colore nero, quindi ci hanno poi anche nelle fotocopie, quando si sente dire sono allergico anche alle fotocopie, ai toner, quindi possono avere, cioè una sostanza chimica, poi noi poi la possiamo trovare in diverse situazioni. Allora, una volta identificato questa diciamo questa sostanza, questa allergia ai detersivi, è chiaro che noi abbiamo anche delle terapie, però attenzione, perché per la prima volta noi abbiamo anche un detersivo che non contiene potassio bicromato, che possiamo trovarlo in farmacia. Quindi mentre prima dovevamo dire non utilizziamo i detersivi, perché poi c'era anche il detersivo che noi mettiamo addosso, quindi i detersivi con cui laviamo i vestiti. Esatto. E quindi il soggetto che è molto sensibile può avere fastidio anche dal detersivo, insomma, con cui noi laviamo i vestiti. Quindi noi per la prima volta abbiamo questo detersivo senza potassio bicromato che possiamo trovare in farmacia. E poi abbiamo delle terapie locali. Le terapie locali che vanno da terapie chiaramente al cortisone nella prima fase, nella fase acuta, a tutte delle creme idratanti o addirittura delle creme barriera, che sono una specie di guanto liquido. Cioè al paziente noi prescriviamo queste creme, e il paziente, pur avendo la mano nuda, si allontana da queste sostanze strane. Quindi è come se avesse un guanto sempre con lui, pur avendo la mano libera. E ho quindi capito. Chiaramente è libero di fare tutte le cose che normalmente fanno. Non scordiamoci, per esempio, il cassiere di una banca, di un supermercato, e chiaramente non può stare con dei guanti di cotone. E non avrebbe la percezione del denaro in mano. Cioè, esatto, soprattutto nella fase di contagio del denaro. Quindi noi attualmente abbiamo, a parte che abbiamo anche ormai degli indumenti, delle scarpe, delle calzature, senza questi materiali, quindi noi possiamo dare una risposta a questi pazienti. Dottore, spesso è successo anche a me qualche volta, e ho preso i miei provvedimenti, ma spesso succede magari alle persone anziane che indossano i pannoloni per l'incontinenza o per delle allergie dovute a contatto appunto con gli indumenti intimi lavati con dei detersivi, si formano delle piaghe nelle parti intime, parliamo in termini accessibili a tutti, siamo in radio, sia dal punto di vista vaginale per quanto attiene la donna, sia dal punto di vista penale per quanto attiene, e quindi nello scroto e di conseguenza anche dei testicoli, per quanto attiene l'uomo, no? E allora, come si può evitare che questo accada, a parte cambiare il detersivo e magari proteggere le parti intime con qualcosa di meno traumatico? Delle pomate anche all'ossido di zinco, delle paste all'ossido di zinco, che hanno un effetto protettivo. Però ripeto, secondo me la cosa importante là è andare a vedere sempre l'origine allergica. Quindi perché se in natura... possiamo avere anche l'allergia alla carta igienica. Quando adesso abbiamo noi la carta igienica profumata, non accorgiamoci che sono dei profumi. E una delle allergie più frequenti sono le profumazioni. Ecco, poi succede che si hanno dei pruriti particolari, uno comincia a grattarsi e si formano le piaghe. Le terapie le abbiamo, quindi abbiamo sia terapie protettive, quindi preventive, sì, con pomata all'ossido di zinco, queste creme barriera, e creme lenitive, quindi, che ripeto, in una prima fase noi andiamo a dare un farmaco specifico, che in genere è il cortisonico, cioè abbiamo diverse potenze di cortisone, sempre locali però, non cortisone per via generale. Ho capito. E poi in una seconda fase, per evitare appunto che questa lesione si continui a manifestare, noi abbiamo delle creme che ormai non contengono più farmaco, ma ci sono delle sostanze ad azione simili al cortisone, ma che non contengono farmaco, e quindi noi li possiamo mettere in qualsiasi zona, nel viso, appunto a livello anale, a livello vaginale, senza nessun problema. Quindi noi le terapie le abbiamo. Bisogna rivolgersi sempre a un dermatologo e un allergologo. in questo caso. Per chiudere l'argomento, facciamo attenzione ai detersivi che usiamo, vediamo di togliere quanto più polvere possibile, facciamo areare la nostra casa, ma la cosa più importante è, in presenza di manifestazioni anche di eruzione cutanea o di altre manifestazioni allergiche, recarsi subito presso un centro di allergologia e stabilire qual è l'esatta causa dello scatenarsi di questa patologia. Certo, quello senz'altro, io direi che alla base di tutto sempre parlare con una persona competente. Noi riusciamo soltanto anche dalla visita certe volte a dare già le risposte ai pazienti. Allora, il tempo è scaduto. Big Ben, dicevo, mio grande predecessore, ha detto stop. Io la ringrazio per quello che lei ci ha suggerito e naturalmente invito tutti i radioascoltatori che si dovessero accorgere di avere una patologia di questo tipo di potersi tranquillamente rivolgere anche al dottor Zambito. Lo trovate a Petralia, lo trovate in strutture pubbliche, attenzione, e lo trovate anche a Termini, anche a Palermo. Ecco, anche a Palermo. Vogliamo dare un indirizzo per tutti, diamo magari Termini perché qui siamo nel comprensorio delle Madonie. Sì, è il poliambulatorio di Termini, via Ospedale Civico. Dottor Zambito, io la ringrazio per la sua disponibilità. Grazie a voi, ci scusiamo. Sono disponibile ad altri incontri. Ci scusiamo per il tempo che abbiamo sottratto a qualche paziente, ma era doveroso anche informare i nostri radioascoltatori. Le auguro buon lavoro. Grazie, e buona giornata. Grazie ancora, dottor Zambito. Linea alla regia. Bene, siamo di nuovo in diretta e dunque adesso trattiamo un altro argomento altrettanto importante, forse un po' più importante delle allergie. Si parla di epatite C e ne parliamo con il dottor Madonia, che è responsabile di questa patologia presso l'ospedale Cervello di Palermo. Dottor Madonia, buongiorno, grazie per aver risposto all'invito. Pronto? Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, dottor Madonia, spieghiamo intanto cos'è l'epatite C. L'epatite C è una di quelle forme di epatite mediata da un'infezione virale, l'altra più nota è l'epatite B, sì, che ovviamente è una di quelle forme di epatite che può avere un'evolutività e quindi portare il paziente verso una forma di epatopatia cronica più avanzata. Senta, dottor Madonia, come si entra in contatto con l'epatite C? Formalmente il contatto con l'epatite C avviene attraverso il sangue, quindi la contaminazione con prodotti del sangue, ma anche con quantità apparentemente microscopiche, diciamo, di sangue. Poi nei fatti, all'interno della società siciliana, l'epatite C ha girato soprattutto nel dopoguerra e la diffusione era soprattutto una diffusione intrafamiliare legata alle precarie condizioni igieniche e all'affollamento domestico di quei periodi e anche alle precarie condizioni di alcuni riti sociali, come l'andare a farsi la barba dal barbiere con lo stesso rasoio, eccetera eccetera. Oggi ovviamente i veicoli di diffusione sono totalmente diversi e attualmente nella società italiana il veicolo di diffusione più frequente sono l'uso di droga, ma fortunatamente adesso l'uso di droga endovenosa si è notevolmente ridotto, e purtroppo anche le esposizioni sanitarie a rischio. Quindi gli ospedali, le corsie ospedaliere. No, ma esiste la possibilità di contrarre questa infezione anche nell'ambito di pratiche sanitarie, ma questo è il motivo per cui ovviamente adesso i materiali sono tutti in manuso, i pazienti vengono sempre controllati prima, onde evitare che si possano poi creare degli equivoci a tal proposito. È possibile aver contatto la malattia senza che il paziente se ne renda conto? Quali sono i sintomi? No, assolutamente. Allora, è assolutamente possibile, anzi è probabile. Diciamo che la forma di epatite C che è acuta, diciamo che al momento in cui il paziente contrae l'infezione, dopo qualche tempo segue una fase acuta, dopo la quale il paziente può guarire o può cronicizzare l'infezione. Più o meno la probabilità è 50-50, diciamo così. Al 50%. Comunque sia, è un'epatite acuta quasi sempre asintomatica. Laddove diventasse sintomatica, quindi si presenta con astenia, quindi mancanza di forza, dolori articolari, il paziente comincia ad avere gli occhi gialli e le urine scure, per esempio, beh, questo che paradossalmente potrebbe sembrare un dato favorevole, anzi sfavorevole, anzi sicuramente non è un dato gradevole, però questo contraddistingue quel sottogruppo di pazienti che hanno la maggiore probabilità poi di guarire dall'infezione e non cronicizzarla. Quindi, che significa che molto spesso i pazienti non hanno sintomi e passano silenziosamente dall'epatite acuta a una fase di cronicizzazione. Senta, la prevenzione come si potrebbe porre in essere? Cioè, durante per esempio normali prelievi di sangue per normali accertamenti si può evincere da lì l'epatite C? Allora, stiamo parlando di due cose diverse. Una cosa è quello che chiede lei, che è una diagnosi precoce, una cosa è la prevenzione. Per quanto riguarda la diagnosi, sicuramente basta un prelievo di sangue per poter fare il test per l'epatite C. Per quanto riguarda la prevenzione, ovviamente, essendo quelle di cui parlavamo prima, sì, le vie di contagio, bisogna essere sempre molto scrupolosi a che tutte le forme di igiene, sia per quanto riguarda le pratiche sanitarie, quindi materiali monouso, guanti, lavaggio delle mani, eccetera, sia per quanto riguarda le pratiche domestiche, quindi gli spazzolini incappucciati, ognuno tenga il proprio rasoio, queste cose qua che fanno parte ovviamente... Anche dal dentista bisogna fare attenzione eventualmente. Assolutamente sì, devo dire che voglio immaginare e sperare che in tutti gli studi odontoiatrici oggi vengano usati i materiali monouso o laddove non monouso, sterilizzati con, prima di tutto puliti, perché non c'è sterilizzazione che sia sufficiente se prima lo strumento non è ben pulito. Quindi puliti e poi successivamente sterilizzati in modo tale da garantire una asepsia, quindi l'impossibilità che queste pratiche diventino un veicolo di contagio dell'epatite C. Dottor Manolia, lei è stato molto esaustivo, spero che i nostri radioascoltatori abbiano preso carta e penna e quindi preso i dovuti appunti, di modo tale che si possa ancora di più ridurre questa patologia che colpisce silentemente una buona fetta di popolazione. Io comunque voglio dire, prego, per spezzare una lancia a favore, che comunque è una patologia in spontanea, progressiva, lenta riduzione, fortunatamente, proprio perché gli standard igienici vanno migliorando. D'accordo? D'accordo, grazie, okay, per l'intervento, grazie per la spiegazione e naturalmente le auguro buon lavoro e buona giornata, dottor Madonia. Buon lavoro a voi, arrivederci. Grazie al dottor Madonia. Dunque, passiamo subito all'altra parte dello sponsor. Il programma, mancano ancora quasi 15 minuti alla fine. Volevo ringraziare i Quattro Cannoli, che è il ristorante pizzeria e pizzeria a legna, con delle pizze veramente straordinarie, gustosissime, fragranti, e poi dei primi piatti che sono all'insegna del gusto madonita, con carne che ha tracciabilità madonita, quindi massima sicurezza su quello che si mette nelle proprie fauci, no? per ingurgitare. Quattro Cannoli, dove lo trovate? Ma a Castelbuono, ed è vicinissima alla fontana che porta il medesimo nome, l'omonimo. Poi abbiamo Visione a Gangi, a Pedalia Bivio Madonnuzza. Sono due negozi straordinari con firme prestigiosissime per quanto attiene i piumini, per quanto attiene gli abiti da donna uomo, quindi i vestiti, quindi le giacche, i maglioni, eccetera. Ne cito uno per tutte: Navigare. E sono negozi veramente di alta classe, ma accessibili a tutti. Ci sono anche i jeans, che sono veramente straordinari. Trovate le marche più prestigiose. Andateci a nome mio, vi faranno gli sconti in questo momento, ma qualche sconticino in più sicuramente ve lo faranno. Visione a Gangi e Visione anche a Bivio Madonnuzza. E poi parliamo ancora di Castelbuono, con un'azienda che è veramente straordinaria, sono gli Zito Mobili, maestri artigiani. Zito Mobili, trovate tutto quello che necessita per la vostra casa e i vostri uffici, la vostra casa, con i divani in pelle o in stoffa, con le cucine componibili, con i salotti che sono veramente meravigliosi. Ma la cosa più importante è che non trovate soltanto tutto quello che io adesso vi sto dicendo, che sono di forgia industriale nazionale, ma pensate, i fratelli Zito sono nelle condizioni di venire a casa vostra a prendere le dovute misure e farvi, appunto, su misura la cucina, che la vedete crescere sotto i vostri occhi, la camera da letto, o se avete degli uffici da arredare, beh, non ci sono problemi. Anche lì i fratelli gli Zito Mobili vengono e vi sistemano il tutto secondo i vostri criteri e la loro maestria. Berloni a Cefalù. Berloni è già un nome, non c'è bisogno di presentazioni. Pensate, in questo momento c'è il 30% di sconti, quindi potete tranquillamente andare a comprare la vostra cucina, cucina che peraltro si parte da 3.900 euro, quindi voglio dire, ci sono anche dei prezzi molto accessibili a fronte di una firma molto prestigiosa come quella di Berloni. La trovate a Cefalù, proprio sotto l'ex caserma dei carabinieri. Io direi a questo punto di dare la linea. Dicevi? Musica. Beh, insomma, ogni tanto il mio fonico mi prende per l'orecchio, bisogna ascoltare musica, perché parliamo. E allora, io do la linea al nostro fonico, alla parte tecnica, ci farà ascoltare sicuramente un bellissimo brano, perché lui è uno che seleziona musica. Linea alla regia. Lei è Bene, vi ricordo ancora che state ascoltando CRM Radio, Carta e Penna, programma che va in onda ogni giovedì da mezzogiorno alle 13 e in differita domenica dalle 11.30 in poi. Abbiamo ascoltato due specialisti, un allergologo e un medico che si occupa dell'epatite C. Abbiamo capito cosa è l'epatite C, come si contrae, come si può evitare il contagio e soprattutto la prevenzione, che avete sentito in ambedue gli argomenti, come si può porre in essere. C'è una notizia internazionale che copre tutti i giornali d'Italia, ma anche tutte le testate televisive del news. Stiamo parlando di quello che accade nel Nord Africa, nel mondo islamico, soprattutto per quanto attiene Tunisia e egiziani. Si pensava fino a qualche giorno fa che tutto in Egitto potesse rientrare nella norma pacifista di un cambio al vertice dopo 30 anni di dominio da parte di Mubarak. Così non è stato. Ieri ci sono stati scontri violenti, ancora con morti e molti feriti, nella piazza principale del Cairo. I sostenitori o presunti tali di Mubarak si sono scagliati contro, sono entrati in contatto con la massa, 2 milioni di persone. Pensate, il Cairo fa 22 milioni di abitanti, si è scontrato con 2 milioni di protestanti in piazza e c'è scappato il morto e anche migliaia di feriti. L'esercito per fortuna non sta intervenendo in questo momento, perché è molto vicino, giustamente a mio modo di pensare, alla gente che sta protestando in maniera civile fino all'altro giorno. Ieri sera le cose sono un po' precipitate, non si capisce come, in che direzione si vada, ma si spera che tutto possa rientrare nella norma della democrazia, nell'alternanza e soprattutto nel fatto che il presidente Mubarak possa rassegnare le proprie dimissioni e andarsene pacificamente, lasciando un paese pacificato e non un paese invece in guerra civile. Molte sono le preoccupazioni da tutte le parti del mondo, soprattutto gli Stati Uniti. Il presidente Barack Obama in un suo discorso alla nazione ha invitato il presidente medesimo Mubarak a lasciare il Cairo in punta di piedi, in silenzio, facendo sì che si possa andare a nuove elezioni democratiche. Ieri sera Frattini, il nostro ministro degli esteri, diceva di una piccola preoccupazione per i fratelli islamici, la parte più radicale dell'Egitto, ma anche più radicale in molti altri paesi del Nord Africa con vocazione islamica, ma comunque cercheranno, almeno le diplomazie, di stare a debita distanza, non essere ingerenti nella politica interna di questi paesi. Anche perché queste popolazioni hanno già le idee chiare, sono state vessate per molti anni, rischiano la fame, c'è una povertà insomma abbastanza eclatante, pochi ricchi, moltissimi poveri, e quindi le diplomazie devono stare, soprattutto quelle europee e quelle italiane. Siamo molto vicini al fronte islamico dall'altro versante del Mar Mediterraneo, però nello stesso tempo, insomma, dare un aiuto a queste popolazioni non sarebbe male, aiuto quantomeno morale in questo momento di stand by, dove tutto è fermo e non si capisce in quale direzione si vada, né in Tunisia né nel Marocco. In Tunisia c'è stato è andato via il presidente tunisino, e lì la situazione è un po' più calma in questo momento, mentre come dicevo prima, in Al Cairo, la capitale dell'Egitto, le cose non stanno andando proprio per il meglio. Ci sono scontri ancora in atto, poi vediamo nel futuro, negli altri giorni, quello che succederà, quello che accadrà. Ci auguriamo soltanto che le menti possono ragionare e si possa arrivare a una fase di transizione, ma con la democrazia che possa dare ragione se vince una parte, e dare all'opposizione quello che gli compete. Per cui l'augurio che ci facciamo tutti quanti noi addetti ai lavori è questo. Poi voglio dire, l'essere umano purtroppo a volte della ragione se ne fa un baffo e non la pone in essere, e anzi, come avete sentito anche dai telegiornali nazionali ieri sera, ci sono stati degli scontri abbastanza forti tra la fazione di Mubarak, cioè coloro i quali appoggiano Mubarak, l'ex presidente egiziano, e quelli che vogliono invece che il presidente se ne vada da subito, perché da subito vogliono nuove elezioni e da subito vogliono inserire un nuovo Parlamento. Mi pare che sia anche giusto. Prima di salutarvi volevo ricordare il Magico Cadeau, che sono un negozio di bomboniere a Castelbuono, proposte esclusive raffinate per cerimonie di prestigio. Pensate, qui ci sono delle firme veramente straordinarie, tra l'altro sono rivenditori autorizzati della Broadway. Il magico codolo lo trovi in via Umberto 1 12, il numero civico a Castelbuono. Vi do il numero di telefono 0921 67 20 92 329 58 27 449. Belle firme, insomma. Andiamo da Clara Luna, andiamo alle bomboniere dipinte, andiamo a Mariella Martini, ancora c'è un vasto assortimento con Doca Preziosi, RDM Design e Harmony. E cos'altro volete di più? Portate a casa veramente un pezzo di magia per quanto attiene i giorni più belli della vostra vita, ai matrimoni, alle cresime, ai battesimi, alle prime comunioni. Questo è il magico cadeau. Ci parleremo ancora di questo negozio, perché è veramente una bomboniera entrarci dentro, ve lo consiglio a tutti. Volevo anche ricordarvi due appuntamenti importanti: il 13 e il 14 per San Valentino, il 13 a pranzo e il 14 invece la cena per San Valentino, dove è alla Posada Incontrada Carsa a San Mauro Castelverde. Sono due serate a tema, si parla di nuova enogastronomia, di piatti nuovi, di piatti non in fase di sperimentazione ma di piatti sconosciuti ai più. Quindi andate il 13 su prenotazione, adesso vi do anche i numeri, alla Posada Incontrada Carsa, immersa in un verde straordinario, in un silenzio veramente che vi lascia il tempo di gustare quello che state mangiando, nessuno vi disturberà. Alla Posada Incontrada Carsa San Mauro Castelverde, appena passate finale c'è il primo bivio, salite come se dovesse andare a San Mauro, al secondo bivio sulla destra c'è scritto Carsa Gangi, prendete quella strada e vi porta davanti la posada. Non c'è soltanto enogastronomia, c'è intrattenimento, c'è karaoke, c'è recital di poesie e non solo. Non vi annuncio null'altro, però desidero che il 13 e il 14, o a pranzo il 13 o la cena il 14 per San Valentino, veniate a trovarci, ci sarò anch'io alla Posada di Carsa. Vi do i numeri di telefono per le vostre prenotazioni: 320 61 71 410, ripeto 320 61 71 410, il fisso invece 0921 674 097 674 097. Vi aspettiamo numerosi per passare due serate, un pomeriggio, pranzo e pomeriggio, e una serata veramente all'insegna del grande, grande amore con la A maiuscola. Io ringrazio Simone alla parte tecnica, ci ha seguito, è la terza puntata che facciamo insieme, spero di averti anche per la quarta, la quinta, la sesta fino alla sessantesima. Ringrazio voi per essere stati all'ascolto, i nostri sponsor che sono sempre presenti nelle nostre trasmissioni, e cos'altro dirvi? Vi auguro buon weekend, riascoltateci domenica in differita dalle 11:30 in poi, e naturalmente occhio alla guida, soprattutto con il cattivo tempo e la pioggia. Per il resto, ecco, che Dio ce la mandi buona. Un bacio a tutti, ciao da Filippo Glorioso. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. L'appuntamento è per venerdì prossimo dalle 15 alle 17.